Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti, sono le 11.09, siamo pronti per partire con Peter Bescapè in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi come sempre in redazione. Andiamo a sentire i titoli di oggi. Massimo comfort con il minimo dispendio di energia, parliamo di postura. Saliva, una miniera di informazioni per la nostra salute. Piedi a prova di sandali. La tiriamo spesso in ballo a giustificazione del nostro mal di testa o delle tensioni che avvertiamo a livello del collo, o magari per dare una spiegazione a quel dolore alla schiena che ogni tanto viene a trovarci bloccandoci. Oggi parliamo di postura e vogliamo con i nostri ospiti rimetterci in equilibrio, scoprire al tempo stesso la vera origine dei nostri acciacchi e magari valutare che la postura proprio non c'entra. Ci aiutano il dottor Stefano Respizzi, che è responsabile del Dipartimento di Riabilitazione e Recupero Funzionale di Humanitas, che è tornata a trovarci. Dottor Respizzi, buongiorno. Buongiorno Nicoletta. È qua in studio con me e insieme a noi abbiamo anche la dottoressa Daniela Vernazza, che lavora con il dottor Respizzi e fisioterapista all'Humanitas. Benvenuta. Buongiorno, buongiorno Nicoletta. 824 0024, il nostro numero verde a vostra disposizione, i messaggi al 349 238 6666. Dottor Respizzi, il modo in cui camminiamo, stiamo fermi, ci atteggiamo, anche ci rapportiamo con noi stessi e con gli altri, dice molto, parla di noi, no? Rispetto al nostro vissuto personale, al tipo di vita, anche allo stress che gestiamo. Dice anche qualcosa del tipo di lavoro che facciamo, dell'attività fisica che pratichiamo o che invece non pratichiamo. Insomma, siamo un po' il risultato di tutto quello che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo. La postura è qualcosa di molto complesso. Sicuramente sì. Per definirla in maniera semplice, io direi che come occupiamo lo spazio intorno a noi. Sì. Quando siamo fermi, ma ancora di più quando siamo in movimento. È proprio un modo di esprimere con il nostro movimento le nostre sensazioni, il nostro modo di essere. Più è armonica la postura e più possiamo pensare che una persona sia in equilibrio con se stessa. Quindi la definizione più semplice è proprio questo: come occupiamo lo spazio intorno a noi. Dottoressa Vernazza, proviamo a visualizzarla, facciamola più semplice possibile. Quando ad esempio ci vediamo riflessi in una vetrina o incontriamo uno specchio senza essere preparati, vediamo che l'immagine che ci viene restituita è di un corpo talvolta un po' goffo, insaccato, le spalle curve, un po' la pancia in fuori. Le nostre nonne dicevano pancia in dentro e petto in fuori, no? Per parlare del portamento, che forse ha qualcosa a che fare con la postura, ma non sono sinonimi. Direi che questo detto dei nostri nonni ci può accompagnare nel ricordarci qual è la postura corretta da mantenere. Effettivamente un portamento eretto con la testa allineata, diciamo, io dico sempre che bisogna utilizzare un portamento fiero, quindi petto fuori, pancia in dentro, spalle indietro, non arrotolate in avanti, con appunto una elasticità muscolare che ci permette di mantenere testa, spalle e bacino allineati, è sicuramente quello che si dice una postura corretta. Dottor Respizzi, quindi la dottoressa Vernazza ha descritto questo che, no, ci ha fatto visualizzare questa postura, lei diceva il modo con cui noi occupiamo lo spazio, che sì, in modo elegante, sinuoso, parla molto di noi, anche delle nostre tensioni. Sappiamo che ad esempio anche la respirazione c'entra molto, quando siamo stressati siamo rigidi, un po' in difesa. Ma diciamo, individuiamo anche i punti in cui una cattiva postura si fa sentire, così l'abbiamo descritta e andiamo a vedere dove si fa sentire. Noi quando ci muoviamo nello spazio ci sono proprio definizioni che dicono che il movimento è un modo di esprimersi sostanzialmente. Quindi noi abbiamo una comunicazione di tipo non verbale fatta dal nostro corpo. Quello che diceva prima della respirazione è fondamentale. Quando io faccio fatica a respirare, sono bloccato, mi ingobbisco, tendo a chiudermi in me stesso e dimostro in questo modo a quelli che mi stanno attorno che c'è qualcosa che non va. Quindi io penso proprio che la respirazione sia collegata alla postura corretta, proprio perché è necessario introdurre più aria possibile nel torace, dilatare i nostri muscoli per fare in modo che la postura sia corretta. Quando incontriamo una persona che tende invece a stare un po' goffa, un po' piegata in avanti, che ha la tendenza a essere chiuso in se stessa, tendenzialmente questa è proprio la postura del depresso in senso lato, non nel patologico, e quindi di una persona che tende a stare chiusa, a non comunicare quello che prova, a non essere, come diceva prima Daniela, fiera del proprio portamento. E questa è una cosa che è molto facilmente rilevabile anche così con un esame obiettivo molto semplice, visivo, le persone che si incontrano, è un modo anche per comunicare questo aspetto. Sto cercando di assumere una postura, postura fiera, dottor il bel portamento, il bel portamento. Si diceva il bel portamento. Dottor Respizzi, però noi la tiriamo in ballo la postura quando ad esempio avvertiamo dei piccoli dolorini. I punti critici sono classicamente il tratto cervicale e le spalle e la prima parte del dorso. Sì. Questo è un punto dove proprio tutte le nostre difficoltà quotidiane rimbalzano lì e si appiccicano lì. Tutti noi sentiamo, ci sembra di avere qualcuno appoggiato qua che ci pesa, ed è la vita che ci pesa ed è lì appoggiata. Allora i muscoli trapezi, che sono questi che ci sono al lato delle spalle, tra le spalle e il collo, sono proprio un punto di contrattura ed è una cosa tipica proprio, soprattutto poi nelle persone che non praticano attività sportive, sedentari, classici, che hanno tutta la vita appoggiata lì e che fanno poco per contrastarla, quindi, per togliersela di dosso. Quindi se avete qualcuno che pesa che sulle lì. Vostre spalle, chiamateci 824 0024, ma anche se avete dolore alla schiena, dottore. Assolutamente, perché Respizzi. Poi da lì in poi si scende verso il basso e il tratto lombare è il secondo gradino, perché una postura scorretta del capo e del collo poi si riverbera anche a livello lombare e fino poi agli arti inferiori, fino ai piedi si può arrivare. Allora, l'abbiamo descritta, visualizzata, abbiamo localizzato i punti in cui si fanno sentire gli effetti di una cattiva postura, quindi collo, spalle, schiena. Adesso dobbiamo fare un passo in più, che credo sia il più difficile: imparare a sentire la nostra postura. Il nostro motto di oggi sarà: se la senti, la correggi. Dottoressa Vernazza, questo sarà il compito che le affidiamo oggi: guidarci a sentire la nostra postura. Spesso sono gli altri a dire: dai, stai un pochino più su, ti vedo curvo, datti un tono. Ecco, noi dobbiamo arrivare il momento prima, cioè non farcelo dire ma sentirlo. Dove lavoriamo? Lavoriamo sui muscoli delle spalle, che coinvolgono i movimenti delle spalle, del collo e del tratto lombare prevalentemente, così come già anticipato dal dottor Respizzi. Qualche suggerimento potrebbe essere questo: tastare i nostri muscoli al lato del collo, che stanno tra collo e spalle, ci dice già che sono dolenti, che sono rigidi. Questo significa che devono muoversi, devono essere lasciati andare. Per fare questo, un esercizio molto semplice è quello di sollevare le spalle verso le orecchie, il proviamo. Più possibile, contraendo al massimo, e poi lasciare andare. Di nuovo sollevare le spalle, lasciare andare. Questo movimento ripetuto più volte ci permette di abbandonare e rilasciare questa muscolatura che spesso è coinvolta in una cattiva postura. Le spalle tendono a stare sollevate e certe è volte vero. Anche con una dismetria tra una spalla e l'altra. Una un pochino più alta e una un pochino più bassa. Esatto. Allora, intanto chiamateci. Vedo che sta provando anche in regia Peter Bescapè a così muovere un po' le sue spalle, ma lui ha le spalle di atleta, non voglio dire altro. Intanto voi continuate a chiamarci 824 0024. Dottor Respizzi, dato che oggi vogliamo proprio imparare a muoverci bene nello spazio, ci suggerisca lei la posizione corretta per stare al telefono. Poco, starci poco tendenzialmente. Questa è una il posizione... tempo di comporre il nostro numero verde. Ecco, allora, il telefono è sicuramente uno strumento che induce a una postura scorretta, perché spesso, soprattutto al lavoro, lo si mette tra collo e spalla e bravo, si sta lì perché si scrive così. Anche terribile, nel senso che è completamente bocciata. Simmetrici. Quindi io consiglierei il viva voce in ufficio, se è possibile utilizzarlo, perché in questo modo ho le braccia libere, ho il collo libero nello spazio e non sono vincolato in una posizione che magari devo tenere per un po' di minuti. Quindi assolutamente sconsigliato il fatto di tenere con il collo e con il capo il telefonino è un po' più semplice, perché è piccolino, certo. Ci scappa via, non ce la fai a tenerlo, però anche in questo caso passare tante ore in una postura obbligata, vincolata, in un modo o nell'altro si china il capo verso il telefono e quindi la muscolatura del collo non può che contrarsi. E agganciandomi a quanto diceva prima Daniela, il fatto di imparare a rilassare i muscoli è difficile altrettanto quanto imparare a contrarli. perché noi molto facilmente andiamo incontro a una contrattura, ma poi riuscire a rilassarli è una cosa molto difficile. Bisogna proprio insegnare al paziente questo tipo di tecniche, poi casomai ne parlerà Daniela, come riuscire a imparare a controllare i propri muscoli anche quando si rilasciano. Magnifico, noi impareremo, ci basterà questo tempo. Allora dobbiamo andare, 824 0024, chiamateci e impareremo a rilassare i muscoli ma anche a contrarli, a lavorare su tutte le fasce muscolari che sono necessarie per mantenerci in equilibrio. I messaggi al 349 238 6666. Una mela al giorno. E adesso voltiamo pagina, parliamo della saliva. Noi non ce ne rendiamo conto, ma è davvero un liquido dalle mille virtù. Pensate a cosa succederebbe nella nostra bocca se non ci fosse questo liquido a tenerla pulita, ma anche umida. E poi stavo pensando come potremmo mandare giù il boccone opportunamente masticato per essere inghiottito. Insomma, questo è quanto sappiamo di lei. Ma la saliva è davvero un mondo di informazioni, quasi come il sangue. Ne parliamo con la professoressa Maria Rita Gismondo, direttore del Dipartimento di microbiologia al Polo Universitario Sacco di Milano. Professoressa Gismondo, buongiorno e bentornata. Buongiorno, grazie a voi. Allora, la saliva è una miniera di informazioni. Possiamo avere dei dati diretti, cioè quello che sta succedendo nella nostra bocca, e direi che sono i test confermati già da un po' di tempo, da qualche anno, non so, possiamo sapere se abbiamo un potere cariogeno elevato, cioè se abbiamo una certa predisposizione ad avere carie piuttosto che invece in una situazione fisiologica. Ma ciò che è più affascinante è tutto ciò che è stato scoperto diciamo negli ultimissimi anni. Giusto per citare le frontiere più recenti, basti pensare che attraverso la saliva, per esempio, può essere fatto un test per sapere se si è sieropositivi per l'infezione da HIV. Il test è stato messo a punto da pochissimo tempo e se ovviamente positivo bisogna ovviamente contattare il proprio infettivologo e fare dei test di accertamento di conferma, però è già un buon segnale. E professoressa Gismondo, è già disponibile negli ospedali? È disponibile, però non rientra nei test del sistema sanitario nazionale. Alcuni ospedali lo eseguono, ma è una fase direi ancora in Italia di tipo sperimentale, mentre in Inghilterra per esempio costa 25 sterline, si fa tranquillamente a casa in tutta tranquillità e poi ovviamente il risultato deve essere interpretato dall'infettivologo. Abbiamo anche un test, sempre per rimanere nella mia disciplina, un test per quanto riguarda la parodontite, quindi riusciamo a sapere non solo se la nostra saliva, insomma questo campione fluido della tasca parodontale, è già segno di una parodontite in atto, ma possiamo anche capire se noi geneticamente siamo portati a poter contrarre questa malattia. E questo è molto importante, professoressa Gismondo, perché abbiamo visto quanto è stretta la relazione tra la salute delle nostre gengive e ad esempio il nostro cuore. Certamente, non solo, bisogna anche sapere che dalla bocca passa tutta la nostra salute, passa l'aria che respiriamo, passa il cibo, passano i liquidi, passano i microorganismi, quindi rivalutiamo la saliva. Un altro test importante e che può essere di uso corrente è il test dell'ovulazione sulla saliva, cioè noi possiamo sapere attraverso un test sempre casalingo, un fai da te, possiamo sapere se siamo nei giorni di ovulazione e quindi poter decidere se tentare di andare in gravidanza oppure no. Professoressa Gismondo, questo è un test attendibile, di quanto è alta l'attendibilità di questo test? È molto alta l'attendibilità perché è diciamo fondato sul cambiamento della concentrazione del cloruro nella saliva, infatti il contenuto di alcuni cloruri aumenta 2-3 giorni prima dell'inizio dell'ovulazione a causa dell'aumento degli stessi estrogeni, quindi è direttamente proporzionale alla saturazione degli estrogeni. Se questo dato esiste nel nostro corpo sicuramente aumentano i cloruri, quindi è un test altamente attendibile. Poi e questo stesso test, cioè valutato nell'ambito ormonale, è importante anche per poter modificare e monitorare la terapia dell'integrazione ormonale, cioè in fase di premenopausa o menopausa, quando ci si sottopone a terapia di integrazione ormonale si può di tanto in tanto fare questo test per capire se il dosaggio che noi stiamo assumendo è quello utile. Grazie alla professoressa Gismondo. Grazie a voi. Buona giornata. A voi, buongiorno. Pronto soccorso. Postura, oggi ci rimettiamo in equilibrio, correggiamo la nostra postura e lo facciamo partendo dagli atteggiamenti sbagliati che senza volerlo assumiamo durante il giorno. Ci facciamo dare una mano dai nostri ospiti, il dottor Respizzi e la dottoressa Vernazza, ma ci facciamo aiutare anche dalla nostra scheda. Il grillo parlante di essere benessere, come l'ha descritto un nostro ascoltatore. Andiamo. Dove hai la testa? Allineata alla colonna vertebrale o spostata in avanti? Osserva le tue spalle. Sono ben aperte, distese oppure curve e rilasciate, come se si arrotolassero su se stesse? Prova ad appoggiarti a un muro. Riesci senza sforzo ad aderire con la testa e con il tratto lombare? Quando ti siedi, la tua schiena si appoggia allo schienale oppure lascia uno spazio vuoto? Dottor Respizzi, la dottoressa Vernazza con un colpo d'occhio, la faccio semplice, insomma, riesce a dire ad esempio se io ho una cattiva postura non lo dica. Manteniamo il segreto. A lei invece, dottor Respizzi, che cosa serve per fare una diagnosi? Dunque, in effetti per vedere l'alterazione posturale la cosa ideale è proprio l'esame obiettivo, quello che noi chiamiamo esame obiettivo, cioè guardare il paziente. Sostanzialmente viene messo il paziente in mutande, in piedi, davanti a noi, nel nostro ambulatorio, e si vanno a valutare anteriormente, posteriormente, lateralmente, tutte le posizioni che ha e assume nello spazio. In effetti non ci sono esami così raffinati da andare a fare. Eventualmente io di solito chiedo una lastra della colonna tutta intera in piedi, che si chiama telerachide, viene fatta proprio in piedi per vedere se ci sono un po', se c'è un po' di scogliosi, slivellamenti o cose del genere. Eventualmente esistono anche degli esami che si chiamano appunto test posturali, sono delle piattaforme sulle quali si sale e queste piattaforme ci indicano come ci muoviamo nello spazio, dove, da che parte pendiamo tendenzialmente. Non è sicuramente utile invece fare esami complessi tipo risonanze magnetiche, TAC, queste cose qui, perché non ci direbbero niente, non servono assolutamente a niente. Quindi la cosa ideale è proprio la visita, guardare il paziente. Allora, andiamo a Cremona perché c'è Maria Grazia che ci aspetta. Buongiorno Maria Grazia. Buongiorno, io stavo ascoltando quello che dicevate e ho sentito, mio marito praticamente non essendo medico mi ha fatto l'esame obiettivo della Bravo, cosa. Vede che servono i mariti. Perché mi dice sempre, ma guarda dove stai andando. Praticamente io mi sono chiusa, cioè la mia testa si è praticamente un po' più abbassata, io cammino avanti portando le spalle avanti. Questo è dovuto a ho dolori cervicali, insomma questa cervicale che veramente non mi abbandona. Adesso sto facendo ancora anche una serie di accertamenti, però la mia postura è proprio cambiata. Mio marito dice, guarda che ti sei portata tutta in avanti, è come se mi chiudessi nel mio dolore. Allora, vedo che i miei ospiti annuiscono, perché come se sapessero già in parte la storia di Maria Grazia, segno che se la sentono raccontare spesso. Darei subito un consiglio e ce lo dà la dottoressa Vernazza. Maria Grazia, che cosa può fare per evitare di andare in avanti e di aspettare un po' che le cose le vengano, no? incontro prima di anticiparsi così troppo? Dunque, sicuramente non deve trascurare i suoi problemi di dolore cervicale, perché probabilmente possono esserci anche dei problemi specifici che devono essere presi in considerazione. Per quello che riguarda invece la postura che si è modificata, sicuramente è legata a questo momento di sofferenza, di non attenzione a questa postura modificata. Sicuramente esercizi di tonificazione dei muscoli della colonna in toto, insomma, sia del tratto cervicale che del tratto dorsale e del tratto lombare, la possono aiutare. Un esercizio banale che quelli può fare che mi piacciono, quotidianamente, è proprio quello di allinearsi a una parete, i piedi, semplicemente i piedi non proprio appiccicati, leggermente distanziati dalla parete, e cercare, attivando la muscolatura di tutto il corpo, nel allinearsi proprio alla parete, come se la colonna vertebrale diventasse una linea parallela alla parete. Senza appoggiarsi o bisogna appoggiandosi, spingendo proprio contro la parete che non si sposta, che non si muove, che ci regge e che ci permette di allineare il più possibile la colonna sulla verticale. Questo esercizio mantenuto per alcuni minuti è sicuramente utile. siamo di nuovo qui, stiamo provando a rimetterci in equilibrio. Non so se avete provato a eseguire l'esercizio semplice ma molto efficace suggerito dalla dottoressa Vernazza: appoggiati ad un muro, ad una parete, per distendere tutta la muscolatura, e dobbiamo con la schiena, giusto, cercare di aderire al muro. Ma ad esempio Massimo mi scrive, non so se è una scorciatoia, se l'esercizio fatto in piedi può farlo anche sdraiato, magari piegando le ginocchia. Assolutamente sì, è un buon suggerimento, è molto più facile da sdraiati allineare Massimo la colonna, alla salunga, allora piuttosto che in piedi, ma anche questo è un esercizio che aiuta poi a mantenere allineata la nostra colonna nello spazio. Marco da Piacenza, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, allora praticamente partiamo un attimo dall'alto. Io ho avuto un incidente e ho la prima costola in alto che è spostata. Poi dopo, in mezzo, quando sto in piedi, è come se mi appoggiassi con la fine delle costole sulle anche, sui fianchi, e ho i piedi carichi. E quando cerco di stare dritto, mia mamma dice sempre che sembra che ho preso un bastone dove... Ma dove le mamme sanno essere anche un po' crudeli, non l'ascolti. Ascoltiamo piuttosto la dottoressa Vernazza. Un quadro difficile quello di Marco? Abbastanza. Comunque gli esercizi già suggeriti sicuramente penso possano aiutarlo molto a recuperare una buona postura. Probabilmente ci sarà il caso di fare delle indagini e valutare direttamente la persona per dare suggerimenti ancora più puntuali. Dottor Respizzi, i piedi, abbiamo detto che è importante molto i muscoli, no? Che devono essere flessibili ma tonici per supportarci. La respirazione fa la parte del leone: se respiriamo, facciamo i respiri troppo superficiali, brevi, ci rinsacchiamo tutti, certo. Quindi adesso poi impareremo anche a respirare nel modo corretto. Parleremo tra poco anche dell'importanza della bocca, dell'occlusione. I piedi. I piedi sono importanti, no? Perché noi ci appoggiamo proprio su di loro. Ci stiamo su tutto il persone giorno. Che hanno piedi piatti o piedi cavi, come il nostro ascoltatore, sono più predisposti ad avere una cattiva postura, proprio forse perché il nostro corpo, certamente, meravigliosa sì. macchina, cerca di compensare. Insomma, certamente, ce la mette tutta, ma il piede cavo e il piede piatto sono proprio due fattori che influiscono pesantemente su tutto quello che sta sopra. Noi stiamo sui piedi tutti i giorni e non solo, ma per motivi culturali abbiamo deciso di metterci le scarpe, perché sì, tendenzialmente nasciamo a piedi nudi, certo, e dovremmo andare in giro a piedi nudi, ma non è possibile. Allora, tutte le correzioni che noi inseriamo nella postura del nostro piede, dalle scarpe con i tacchi, piuttosto che scarpe troppo basse, troppo morbide, piuttosto che no, possono influire su tutto quello che sta sopra, sì, arti inferiori, schiena, eccetera. Quindi il consiglio è di utilizzare il più possibile il piede nudo, ove possibile, ad esempio sì, in casa propria, perché questo stimola nella maniera corretta la muscolatura del piede, e se uno ha un po' di piede piatto, una buona muscolatura del piede migliora questo aspetto. Se uno invece ha il piede cavo, il piede quindi il contrario del piatto, a camminare a piedi nudi è costretto ad allungare, a fare stretching della muscolatura. Quindi questo banale consiglio, che si può fare in casa propria ovviamente tutti i giorni, è già molto indicativo. Se ci sono invece delle deformità del piede strutturate, che quindi non sono modificabili, in quel caso io consiglio vivamente di fare un'analisi del passo e delle solette plantari da mettere nelle scarpe di e tutti questo i aiuta molto. Allora, ci aspetta Marco, che ci chiama da Bergamo. Buongiorno Marco. Buongiorno. Ci racconti rapidamente. Sì, io soffro di vertigini da parecchio tempo. Si sono accentuate dal mese di agosto. A volte mi tagliano le gambe, non riesco neanche a stare in piedi. Ho fatto una risonanza magnetica al cervello e alla colonna vertebrale, ma è indicata parziale disidratazione a due dischi intervertebrali. L'esame del sangue è a posto, tranne un po' di calcio o meno del limite minimo. E volevo sapere se questa debolezza, che mi preoccupa tantissimo, può dipendere da una cervicale. Allora, dottor Respizzi, ma è caduto mai? No, però a volte sono costretto a sedermi perché le gambe non le reggono. Okay. No. Dunque, quello che lei descrive sembrerebbe proprio una situazione legata alla contrattura della muscolatura cervicale. Intendo dire che questi muscoli molto contratti, molto duri, il trapezio e quelli della cervicale, possono dare una sensazione di vibrazione molto, molto lieve, che noi neanche percepiamo, ma che il nostro cervello percepisce. Questa vibrazione genera uno stato quasi di come se si sentisse un po' ubriachi sostanzialmente, sì. No? Per cui si hanno delle sensazioni di sbandamento che non sono veri e propri problemi di vertigini di tipo otorino-laringoiatrico, ma di tipo da contrattura muscolare. Tant'è che lei davvero non è mai caduto, cioè si sente così perché questa sensazione sgradevole fa in modo che la muscolatura molli, si rilasci e quindi uno sente un forte stato di debolezza. Però se non ci sono problemi particolari segnalati né da risonanza né nel cervello né della colonna cervicale, probabilmente si tratta solo di reimparare a usare i muscoli del collo e delle spalle. E si può imparare, dottoressa Vernazza, a tutte le età, ma in quanto tempo? A seconda? Rapidissimamente. Basta provare, semplicemente. E voi potete provare con noi con i consigli della dottoressa Vernazza, chiedeteli liberamente all'824 0024. Andiamo ad Ascoli perché ci aspetta Cinzia. Buongiorno Cinzia. Buongiorno signora. Salve dottore. Buongiorno. Volevo chiedere, io ho un problema di piedi cavi e infatti ho una fascite plantare che mi dura da un'annata. A parte questo, ho spesso mal di schiena, faccio la centravenista, metto il telefono tra il collo e la spalla. Sì. Volevo chiedere, dato che ho spesso mal di schiena, problemi di postura, è opportuno magari anche al lavoro portare un busto che mi sorregga un po'? Ma quanti anni ha, signora? 45. Assolutamente no. No. Via i busti. No. Via. I busti io li prescrivo dagli 80 anni in su, quindi... Quindi c'è tempo, Cinzia, per me e per lei c'è tempo. No, assolutamente no. È importante invece creare il proprio busto fisiologico, normale, cioè attivare la muscolatura. La muscolatura che non è tonica, non è allenata, sicuramente non aiuta la nostra postura. Perché per la schiena della nostra Cinzia di Ascoli, che tra l'altro adesso con i consigli del dottor Respizzi mi auguro che... devo fare anch'io, Cinzia, tenga meglio il telefono, infatti sono sempre un po' incriccata. Quali muscoli su quali muscoli devo lavorare? Gli addominali o i dorsali? Entrambi? Entrambi, gli addominali un po' di più perché sono quelli che utilizziamo meno abitualmente. Un esercizio importante che può sicuramente aiutare la nostra ascoltatrice è quello di attivare la muscolatura addominale profonda e si può fare in questo modo, mettendo le mani lateralmente alla gabbia toracica, proprio sotto le coste, sì, subito ci al di sono. Sotto, ecco. Se noi risucchiamo la pancia, cerchiamo di mandare l'ombelico in dentro, sentiamo che si attivano questi muscoli, sì, si contraggono, contraggono letteralmente. Sì, fanno anche un po' male. E fanno anche un po' male perché è non normale. Siamo abituati. Non siamo abituati. Se questa contrattura, seguita poi da un rilasciamento, si lascia andare la pancia e poi bello, di nuovo si contrae. Questa ripetizione fatta costantemente, giorno dopo giorno, sicuramente aiuterà la nostra ascoltatrice e tutti noi. A proposito, adesso abbiamo lavorato sui muscoli addominali. Tra l'altro, bello, si può fare anche quando si è seduti, no? Certo. Semplice, come bere un bicchiere d'acqua. Basta pensarci. Dottoressa Vernazza, invece, volevo tornare un attimo sulla respirazione. Perché noi quando inspiriamo... fino a un certo punto riusciamo, ma è più difficile invece poi buttare fuori tutta l'aria. Corretto, no? Esatto. Cioè ci fermiamo così, a metà. Allora proviamo così a fare una respirazione che aiuti la nostra postura. L'esercizio più semplice in assoluto di respirazione è unico, secondo me, partendo da una postura allineata, quindi non insaccati ma ben eretti, è importante inspirare il più possibile con tutti i muscoli che abbiamo, non importa sapere quali sono. E poi successivamente buttare fuori l'aria, anche lì con tutti i muscoli che abbiamo, il più possibile. Una volta esaurita la riserva d'aria che abbiamo buttato fuori, è più facile fare un'ulteriore inspirazione profonda, completa, e così via. Se noi ci abituiamo a ripetere questo esercizio di respirazione più volte, facilmente reclutiamo tutti i muscoli a disposizione e abbiamo una postura corredata di respiro corretto come vogliamo. Posso aggiungere una cosa, Nico, che va fatto lentamente questa sì, prova, perché bisogna imparare a sentire il proprio respiro. Se io faccio come un cagnolino in affanno non serve a niente, quindi questi esercizi vanno fatti con molta lentezza, con molta concentrazione, e questo caccia fuori, quando si butta fuori, quando si ispira, quando ci si spreme, anche tutte le tensioni. Quindi parola d'ordine, lentezza. Lentezza. Allora, adesso abbiamo parlato di respirazione, intanto poi ci occuperemo anche dei vostri acciacchi. Stiamo cercando di suggerirvi degli esercizi molto facili che possiamo fare anche nella nostra quotidianità, quindi anche quando siamo seduti alla scrivania, quando siamo in piedi al lavoro, a casa, mentre facciamo le faccende domestiche. Tra l'altro poi risponderemo ad una nostra ascoltatrice che usa molto il ferro da stiro. Abbiamo parlato di respirazione, tra poco voglio parlare di bocca. Ci raggiunge la dottoressa Delle Fantoni, è già in linea con noi. Sì, buongiorno dottoressa Fantoni, bentornata. Buongiorno, grazie a voi. Ed eccoci tornati insieme, dottoressa Fantoni, ribenvenuta. Grazie per essere con noi, perché volevo aprire con lei una parentesi. Negli anni scorsi c'è stato un momento in cui andare dal dentista per curare il mal di schiena, un dolore alla cervicale, era di gran moda e c'era una ragione, c'è forse, per spiegare il ricorso al dentista. Una bocca che chiude male, in modo asimmetrico ad esempio, genera o può generare delle contratture nei muscoli circostanti che nascono per creare una sorta di difesa dal dolore. Queste contratture poi si scaricano sui muscoli della testa, del collo e poi giù fino ai piedi, provocando anche il mal di schiena. Però, dottoressa Fantoni, è anche vero che ci sono persone che hanno un'occlusione non corretta che compensano benissimo senza alcun problema né dolore. Allora, come mai? C'entra la bocca, il modo in cui la chiudiamo, oppure non c'entra? Allora, diciamo che quella meravigliosa macchina che è il nostro corpo umano ha delle capacità di compenso, di continuo riaggiustamento di eventuali presenti squilibri, e nessuno di noi è perfetto. Secondo la teoria delle catene muscolari o kinesiologica, che è stata ed è tuttora molto in voga e che per la carità mira a porre l'attenzione sull'importanza di mantenere un equilibrio in qualunque distretto del nostro corpo. Certo. Dicevo, secondo questa teoria, qualsiasi squilibrio, quindi anche quelli della masticazione, per il fatto che la muscolatura della bocca è attraverso la muscolatura del collo e della spalla in stretta connessione, in stretto rapporto con quella della schiena, è ovvio che ogni squilibrio della bocca può, e qui bisogna sottolineare, può creare, allorquando questo sistema di compenso non funziona più. Il sistema di compenso avviene poi a livello centrale, diciamo nel grande computer che è la corteccia cerebrale, che quindi riceve tutti i messaggi, li rielabora, fa in modo comunque che tutto vada, che noi continuiamo a camminare anche con qualche dolore. Quando appunto questo compenso non c'è più, ecco che allora uno scompenso a partenza dalla bocca, anche perché nulla è statico, magari salta un'otturazione, si modifica qualche cosa in questo ingranaggio, una goccia che crea disturbo, che fa abbassare una gamba del tavolo, lo fa traballare, diciamo così. Va posto l'accento sul può, e giustamente, come è stato detto prima, esistono persone che hanno masticazioni, per così dire, non assolutamente perfette, che non hanno problemi di postura, magari fanno ginnastica come, quindi non è una regola, stili di vita corretti compensatori, quindi come hanno appena parlato, di cui hanno appena discusso i colleghi. Quindi ritorniamo al concetto che ognuno poi ad esempio, io ho notato spesso una cosa, cara collega, che una persona che ti riferisce che di notte digrigna i denti, che spesso ha queste tensioni, ha molto spesso collegato anche una postura scorretta. In questo caso è un aspetto però di tipo dinamico, non statico, probabilmente è la persona che non è in grado di gestire bene la muscolatura buccale, no? Certo, difatti il bruxismo, noi sappiamo tutti che pur essendo molto, molto frequente, molto diffuso, è sicuramente una situazione assolutamente dinamica, è una situazione che riflette uno stato di stress, che quindi comporta una tensione muscolare e quindi un'algia. Però l'idea è che voi, dottoressa Fantoni, intendo voi medici, no? Che vi occupate dei denti, dei piedi, della postura, dovete lavorare in equip. Assolutamente. Nessuno deve prendere l'iniziativa senza consultare al posto dell'altro. Ecco, per cui vale, viva il lavoro d'equipe. Dottoressa Fantoni, a proposito di equipe, io so che lei deve tornare alla sua, per cui la saluto e la ringrazio. Grazie a voi. Buona giornata. Buongiorno. Buona giornata a tutti. Abbiamo tempo ancora per rispondere a Mario dalla provincia di Modena. Buongiorno Mario, benvenuto. Buongiorno. Senti, io chiamavo per questo motivo. Mi sono operato circa 4-5 anni fa di ernia discale. Sì. Poiché faccio un'attività molto sedentaria, a volte la sera ho necessità di fare un po' di attività fisica. Sì. Però ho notato che sul tapirulan o con la ciclette, dopo un paio di giorni che faccio questa attività, ho dei forti dolori alla schiena. Volevo sapere se esiste qualcosa di specifico e di alternativo. Beh, io direi che la prima domanda è: ha fatto riabilitazione dopo l'intervento di ernia discale? Sì, diciamo per breve tempo. Per breve tempo, è proprio qui il punto. Allora, qui non si parla più di postura, qui si parla di riabilitazione. Dopo un intervento chirurgico, come quello che lei ha subito, è indispensabile fare un lungo programma di riabilitazione per ricondizionare la muscolatura del tronco e fare in modo che lei abbia un buon corsetto muscolare che la sostenga. E quindi, piuttosto che mettersi a correre su un treadmill, è molto meglio lavorare, come dicevamo prima, su addominali e dorsali per ridarle sostegno. Allora, abbiamo iniziato questo, spero che sarà la prima di una serie di puntate tutte dedicate al prendere coscienza, consapevolezza della nostra postura per lavorarci da soli, prima di, no, di doverne poi pagare le conseguenze, i danni, insomma, per tenervi un po' lontani. Anche se spero che mi veniate a trovare presto, quindi dottor Respizzi, dottoressa Vernazza, grazie perché ci avete dato una mano con esercizi molto semplici, abbiamo imparato qualcosa. Bene. Grazie, buona giornata, grazie. E buon lavoro. Grazie a tutti. Salve. Siamo arrivati quasi in chiusura, ma abbiamo ancora il tempo di occuparci della nostra bellezza. In linea con noi abbiamo la dottoressa Riccarda Serri, dermatologa e presidente di Skineco, l'associazione di dermatologia ecologica. Dottoressa Serri, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, grazie. Allora, i piedi, per prepararli alla primavera, all'estate e quindi ai sandali. Numero uno, ridiamo importanza ai piedi, perché i piedi sono fondamentali sia per il nostro benessere, sui nostri piedi ci appoggiamo e ai piedi parte la pompa che aiuta la circolazione delle gambe di tutto il corpo, sia per la bellezza, perché i piedi invecchiano anche loro, si imbruttiscono. Ultimamente sto visitando tante di quelle unghie distrofiche, distrofiche vuol dire brutte, scolorite, di colori diversi, causate da scarpe troppo strette o da tacchi troppo alti che non se lo può immaginare. Cosa fare per questi piedi, oltre a usare scarpe comode e cercare di camminare un po' di più a piedi nudi, almeno in casa? Io suggerisco dei bei pediluvi in acqua e bicarbonato, oppure acqua e sale. Acqua calda aggiunta di 3 cucchiai di bicarbonato, 3 cucchiai di sale grosso, quello da cucina, piedi a mollo per 10 minuti, poi asciugare i piedi senza sciacquarli e applicare una crema, o una crema che vi prepara il farmacista contenente acido salicilico al 5-10%, oppure una crema a base di urea al 30%. In mancanza di questi prodotti potete anche semplicemente prendere una bella crema nutriente che avete in casa, perché i piedi vanno ammorbiditi e massaggiati, anche per evitare quegli spessori del tallone che poi spesso portano anche a taglietti e ragadi che sono antiestetici eppure dolorosi. E per oggi è tutto, un saluto e buon pomeriggio da Nicoletta Carbone. Essere e benessere.